Mansfield Park è il terzo romanzo pubblicato da Jane Austen nel 1814. Nel frenetico quinquennio che andò dal 1811, anno della sua prima pubblicazione, al 1816 in cui morì, Jane pubblicò alcuni dei romanzi oggi considerati capisaldi della letteratura in lingua inglese e della letteratura delle donne di ogni tempo: Orgoglio e pregiudizio, Ragione e sentimento e Emma, oltre a Mansfield Park, appunto. In ogni romanzo della sua troppo breve vita, Jane ci ha donato la profonda e sensibilissima descrizione di una sfaccettatura del carattere femminile, non solo del suo tempo, ma di ogni tempo. La appassionata e ribelle Marianne, l'assennata e generosa Eleanor di Ragione e Sentimento, l'orgogliosa e impavida Elizabeth e la mite e timida Jane di Orgoglio e Pregiudizio, l'intelligente e volitiva Emma dell'omonimo romanzo. La scuola delle donne è lieta di offrirvi Mansfield Park, nel quale Jane Austen realizza un ritratto lucidissimo e spietato dei peggiori difetti femminili del suo tempo, quelli più lontani dalla sua personalità. La frivolezza e la superficialità delle aristocratiche sorelle Bertram, l'intrigare dell'amica Mary, l'impicciarsi della zia Norris, l'infingardaggine della pigra Lady Bertram. La protagonista, Fanny, è una dolce, assennata e leale ragazzina di umile famiglia adottata dagli aristocratici Bertram per compassione. Poiché non ha diritto allo stesso stile di vita delle aristocratiche sorelle adottive, Fanny vive al margine e, osservando da fuori, analizza e descrive a noi la futilità della vita che le donne di quel rango vivono. Vite inutili, passate tra un divertimento e l'altro. Jane Austen è ben cosciente e denuncia attraverso l'innocente Fanny l'inutile spreco di vite vissute senza obiettivo e senza ambizione, a parte fare un buon matrimonio. Descrivendo lo stile di vita della sua classe sociale esattamente com'era, con stile quasi giornalistico, Jane Austen ci fa amare Fanny, l'unica figura femminile, onesta, sincera e affidabile. E, guarda caso, l'unica che non appartiene all'aristocrazia. E facendo questo, l'autrice prende una ben precisa posizione sociale e politica. Purtroppo morì solo 3 anni dopo, ma con soli 6 romanzi, Jane Austen è ancora oggi considerata una delle madri della letteratura delle donne. Per maggiori dettagli sulla vita di Jane Austen si veda la scheda introduttiva in questo stesso canale YouTube all'altro romanzo da noi proposto, Ragione e Sentimento. Da Devana, buon ascolto.